pezze, come se non lo sentissi. Uguale contento, resto spento uguale, come la mia vicina. Ti ucciderò quando mi sveglierò, grazie a un raptus omicida. Mi viene un lapsus, balbetto, balbetto. Mi alzo dal mio letto solo per andare in cucina. Apro il frigo, mangio, poi guardo il libro sul comodino. Uno, nessuno, centomila, quando è che lo finisco non lo so. La vita mia è una litania, fa sempre la stessa canzone come un carion. Allora amici miei, ci vediamo giù in Marina. Studi sull'isteria, studi sull'isteria, studi sull'isteria. Welcome to my cage. Io sono spento e ci sto bene così, anche se tu fai di tutto per rovinare il mio equilibrio. Sono distrutto giù di lì e non ti ascolto mentre scrivo, no. Io sono spento e ci sto bene così, anche se tu fai di tutto per rovinare il mio equilibrio. Sono distrutto giù di lì e non ti ascolto mentre scrivo, no. Io ci sto bene così. Io ci sto bene così. Io ci sto bene così. Io ci sto bene così. Io ci sto bene così. Mi vedi per strada e mi saluti, ma io non vedo un cazzo, confondo la notte col giorno. Non sto fermo due minuti, ti lascio di stucco. Mi stendo su una panchina distrutto di brutto. Lo metto alla fine della frase, se vedo una che mi fa girare la testa. Se non faccio il codardo, mi avvicino, ci parlo, mi risponde: vuoi farti un giro, bro? Come mi girano le palle, sai? Vado dietro alle fan di Edward Cullen di Twilight. Che poi chi cazzo è? Anzi un vampiro sex symbol. Meglio che mi sto zitto, tu non sai che farci con me. Io t'ossessiono con le mie stranezze. Tu sei proprio un ipocrita, mi volti le spalle, ma resto uguale tra le tue preferenze. Io sono spento e ci sto bene così, anche se tu fai di tutto per rovinare il mio equilibrio. Sono distrutto giù di lì e non ti ascolto mentre scrivo, no. Io sono spento e ci sto bene così, anche se tu fai di tutto per rovinare il mio equilibrio. Sono distrutto giù di lì e non ti ascolto mentre scrivo, no. Io ci sto bene così. Io ci sto bene così. Io ci sto bene così. Io ci sto bene così. Io ci sto bene così. Studi sull'isteria, studi sull'isteria, studi sull'isteria. Welcome to my cage. Studi sull'isteria, studi sull'isteria, studi sull'isteria. Welcome to my cage.